L'AMPI è cambiata nel senso appunto di consentire la partecipazione degli antifascisti e quindi allargandola la partecipazione rispetto a quella precedente che era fatta solo dai combattenti. Questo significa che è necessario fare un'opera anche di acculturamento soprattutto verso i giovani e quindi la necessità di adeguare per questa funzione la nostra rivista. Questo abbiamo cominciato a farlo dalla fine dell'anno scorso e continuiamo a farlo sperando di migliorare sistematicamente. Un'altra domanda si riferisce all'attualità. Come avete ricordato, qui a Bologna ci sono stati degli episodi significativi di manifestazioni neofasciste, o come avete ricordato la manifestazione in un palazzo pubblico in uno dei comuni intorno a Bologna. In questo senso cosa vuol dire essere partigiani oggi, quindi come si può combattere questo nuovo fascismo e cos'è che è mancato in quell'episodio all'amministrazione pubblica? L'iniziativa fascista non si è tenuta perché c'è stata una sollevazione delle organizzazioni e dei partiti antifascisti. Da questo punto di vista la cosa è stata, diciamo, parata. Come si può evitare che ci siano altri esempi di questo tipo? Naturalmente facendo sì che le amministrazioni comunali, le giunte in particolar modo, i sindaci, stabiliscono delle precise norme per l'utilizzo degli spazi pubblici, sia all'aperto che al chiuso, proibendo che questi spazi siano dati a organizzazioni che professano non solo idee fasciste, ma anche idee xenofobe, razziste, sia dal punto di vista etnico sia dal punto di vista anche del genere. Cioè, se qualcuno vuole fare una conferenza su il colore della pelle, secondo noi deve essere impedito, perché questo è previsto fra l'altro dalla Costituzione, l'articolo 21 della Costituzione. Molti proclamano la fine dell'ideologia come qualcosa di buono, l'hanno proclamato, e invece lei ha sostenuto che questo è un grave danno per la società adesso, e mi chiedevo se l'AMPI ha come programma la costruzione di un'ideologia. No, l'AMPI non è un partito. L'ideologia è uno strumento tipico dei partiti. L'AMPI ha come punto di riferimento la Costituzione italiana. Noi vogliamo che siano rispettati e applicati i principi della Costituzione. Punto e a capo. Quindi non siamo un partito, non vogliamo esserlo, e il nostro obiettivo è quello che vi dicevo. A proposito dell'ideologia, la mia opinione è che non sono morte tutte, sono morte alcune. Per esempio, per chi non fosse credente, ogni religione è un'ideologia, anzi direi che è proprio l'inizio delle ideologie. Non sono morte tutte, perché se seguiamo per esempio le considerazioni che faceva prima Pasquali a proposito del voto americano, lì abbiamo lo sviluppo di un'ideologia precisa, e quindi il problema è di recuperare da parte dei partiti una diversa ideologia rispetto alle ideologie dominanti. Ma quale sarebbe la funzione dell'ideologia? Cioè, perché è importante? Perché è una concezione organica, cioè un modo di vedere il mondo in modo complessivo, organico, e quindi evita la dispersione, determina certi obblighi, perché l'ideologia presupporrebbe, per essere definita, un confronto culturale innanzitutto, filosofico per certi versi, poi presuppone anche la determinazione di tattiche per applicarla, per essere conseguenti, presuppone anche che ci sia all'interno di chi sostiene questa ideologia una certa coerenza, e quindi in altri tempi si parlava, adesso il termine forse qualcuno se l'è scordato, di centralismo democratico, che forse sembra un ossimoro, però significava che una volta definita una strategia, una volta definito un modo di operare, tutti dovevano essere conseguenti con questo. Questo è, diciamo, l'applicare una ideologia.